to achieve. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. 21:04 inizia prove tecniche di trasmissione anche stasera su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info per quanto concerne il riferimento web. Vado sempre a ricordare che sul sito si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione e la vita di questa radio autogestita. Saluto Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Margherita qui a Roma, Simona della Morte in Olanda. Abbiamo Anna qui a Roma, Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, Sara invece che come al solito sta a Berlino. Marco Magia di Progetto Sonoro, Venusia Zozzetta Stramonio dalle Marche, Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, un saluto a Francesco Cornello, a Stefano Di Serio, Like Wake, la storica ambient proprio qui di Roma. Saluto Omicidio con Antonio Zovet, Simone Scalise di Audio Chaos. Salutiamo Anna qui a Roma. Pian pianino stiamo finendo la proposizione di questa compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso la 8 Tower Records, una delle sue numerose etichette musicali. L'album, naturalmente, Music for Abandoned Monasteries, queste ideali colonne sonore per monasteri abbandonati, con tutto l'immaginario conseguente. Molto di casa qui a prove tecniche di trasmissione. E questa sera vado a proporre altri due artisti più o meno sotterranei. Il primo proviene dalla Grecia, si chiama The Black Monolith e di lui ci ascolteremo Obsidian Echoes of Aeon Past, e lo spagnolo Club con Echoes from the Crypt. atmosfere ultra dilatate e criptiche che vanno ad evocare appunto questa ideale colonna per questi monasteri abbandonati, una colonna sonora ideale per quei luoghi fisici ma anche spirituali. E questa sera ho privilegiato l'aspetto più, diciamo, mediterraneo dal punto di vista della provenienza di questi due artisti, Black Monolith dalla Grecia e Club dalla Spagna, da Barcellona esattamente, quindi dalla Catalogna. Siderali e glaciali come tutta, diciamo, questo compendio che si sviluppa più o meno appunto con su tutti questi suoni che piaceranno a molti di voi se non tutti. Vedo che comunque in queste settimane sono stati molto apprezzati i vari artisti, di quali molti sconosciuti. Daniel Ferreira è Club, lui ha anche un profilo Bandcamp al pari di Black Monolith, anche se poi soprattutto di quest'ultimo non c'è molto materiale in giro. Saluto intanto Mariano Anniterri e Nicola Locci di Stigmate and Hexagonal. E graditissima anche Lucia Cagliazza di Lupsi, lei ci ha deliziato con tanta sua musica qui a Prove Tecniche di trasmissione. I monasteri sono abbandonati, ma ci sono anche i mondi dimenticati, che sono ad appannaggio di Rodrigo Passannanti, Forgotten Words. Un disco che esce attraverso la Psychical Dreams, Argentina addirittura. Anche qui ci sono suoni molto umbratili, però contaminati con il krautrock della tradizione dei Corrieri Cosmici degli anni 70, per cui il prodotto finale è più che affascinante. Questa sera è il turno di Orion Silverman. Thank you. Il tracciato musicale di Rodrigo Passananti è un vero e proprio caleidoscopio di colori e di riflessi che ci hanno portato alla psichedelia cosmica anche dei Tangerine Dream. Credo ci sia molto nel DNA di Passananti di quella meravigliosa avventura degli anni 70. Si chiamava Forgotten Words e Forgotten Words era anche un duo che Cristiano Bocci aveva in piedi 30 anni fa insieme al buon Smilzo, se non erro Francesco Monaci. E si torna indietro a qualcosa di più plumbeo, che un po' ci riporta anche ai climi iniziali di questa trasmissione, di questo 26 marzo 2025. Trattasi di Les Anges Morts con Desist. Album è anche questo di recentissima uscita, che si va a concludere proprio con la title track. esce per la Fluttering Dragon, esperienza polacca ormai storica. Questo Les Anges Morts, dal nome Desist, di Maurizio Landini. Vado a salutare Jean-Claude Berthaud, Like Wick e Cristiano Bocci. La prossima settimana ci ascolteremo Cosmonauti, questa opera che li accomuna, opera intensa che ci godremo insieme qui a Prove Tecniche di trasmissione. E dunque un grande, si può chiamare esordio, credo, come Anne Les Anges Mortes, almeno come, diciamo, un'opera lunga. E rimaniamo ancora in Italia, Simona della Morte, ormai di casa qui a Prove Tecniche, ma anche a Disorder lì come Feraglie Planizia, qui come Trait. Qui è un esordio ultra positivo che porta il nome di Doom is Written on Your Brow. I suoni si vanno a collocare nel solco della tradizione della Death in Venice, quindi Industrial, Death Ambient and Noise. La seconda parte di Paranoical Critical e anche Primal Unity. Esordio più che positivo per Simona della Morte insieme a Jeroen Fischer in questo H-Rate, Doom is Written on Your Brow, evocativo ma anche spasmodico nella seconda parte, nella traccia, la terza esattamente, Primal Unity. Sfruttando questo album vi invito anche a conoscere le tantissime proposte musicali di questa etichetta veneziana di Eugen Vintras. Che conosciamo come Gin e Sindrome di Cotard. Buonasera anche a Mara Lasi di Calitis, altra sorpresa degli ultimi anni, un ottimo progetto sardo. Risaluto Simone Scalese di Audio Chaos e anche Massimo a Torino. Lasciamo l'Italia, andiamo in Svezia, andiamo da i due Peter Andersson che tutti voi conoscete, uno di Rise on Dietre e l'altro di Deutsch Nepal, che insieme hanno fondato anni fa questo nome e questo progetto dal nome Boxholm, rifacendosi al loro paesino di origine alle porte di Stoccolma. Il merito di entrambi di aver concepito un lavoro assai lontano sia da Rise on Dietre sia da Deutsch Nepal. Non a caso si chiama Here Comes Boxholm for Your Earthly Delight. Se ci ascoltiamo, Bokrath is Still Alive. Tog sina söder